brucerò le mie canzoni, io non piangerò e vivrò questi sogni e più in alto andrò. La mia nave sogna il mare, io la guiderò. Prenderò il cammino del cuore, seguirò quella parte di me che ha bisogno e che vuole scoppiare questo amore. Vibrerò come un suono nell'immensità, sarò acqua, forse un tuono, la tua anima. Amanti e un poco eroi, con questa voglia.